Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Qualcuno potrebbe anche dire che viaggiare in treno sotto Natale è qualcosa di triste. Tu stai in treno, non c'è nessuno da cui andare, non c'hai un cenone di Natale, non c'è un pranzo di Natale, non c'hai un albero di Natale pieno di doni, non c'hai dei bambini, non c'hai una famiglia. Invece no, la mia è una scelta consapevole. A me piace stare in treno i giorni di festa. I giorni di festa in treno è tutto un clima particolare, si esce dal mondo completamente. I pochi fortunati che viaggiano in treno, quando tutti stanno a casa, quando tutti pensano non ci sia altra alternativa che quella del focolare domestico, che quella degli affetti, che quella degli amici, che quella di stare insieme alle persone, sono soltanto pochi eletti. E con i pochi eletti si viaggia verso un Natale che probabilmente non ha inizio e non ha fine. Happy holiday, happy holiday. Tanto è vero che viaggiare in treno al tempo del Natale è qualcosa che esce fuori dalle consuetudini, che accanto a me mi sembra di vedere qualcosa che appartiene invece, per paradosso, alla più profonda consuetudine del Natale. Mi sembra di vedere quel signore un po' grasso, vestito in maniera buffonesca, di rosso, con guarniture di pelo bianco, che è stato inventato un secolo fa, più o meno, per far reclamo a una bibita nerastra. E oggi ancora sembra che sia il simbolo, l'essenza, la più profonda anima del Natale. Ma come mai invece che viaggiare in cielo con la sua slitta, con le renne, portare regali ai bambini buoni, sta qui in treno anche lui fra i reietti e fortunati allo stesso tempo che passano il Natale sulle rotaie. Mi mancava proprio questa, l'incontrare in treno, tanto bene questo giorno, l'unico in cui in fondo dovrebbe lavorare Babbo Natale, ma ci fa Babbo Natale in un treno. Cosa farebbe lei con una slitta privata delle sue renne? Che è successo alle renne? Hanno preso l'influenza, le enterocolite anche loro? No, si sono ribellate. Hanno detto che la mia è una posizione discriminatoria, umanocentrica. Sono state sobillate dai vegani, dai complottisti, da quelli che vedono le scie chimiche. Sì, qual è il rapporto tra scie chimiche e renne? Questo dovrebbe farmelo capire. Lei se ne vada in giro per il cielo invernale per tutta la notte e qualche scia chimica alla renna ci scappa. Ho capito il nesso. Certo, non è proprio la forma più semplice. Lei deve scendere dal treno, portarsi giù il sacco, salire nel camino, mettere dentro il sacco al camino, scendere, risalire, andare alla stazione, riaspettare un treno, risalire. È una vitaccia proprio. È una vita impossibile. Questo infatti è un Natale senza regali. Tanto i regali ve li fate tutto l'anno, poi lo sa che alla fine ormai non vale nemmeno la pena di fare questo mio mestiere. È un mestiere antico, un mestiere che ormai non ha più senso. Una volta avevo un esercito di elfi aiutanti e costruivo marionette, bambole, trenini, casette, pinocchietti. Oggi i bambini chiedono ricariche per lo smartphone, le madri trattamenti di bellezza, buoni per le spa, la gente si regala viaggi, soggiorni, buoni pasto. Il sacco ormai non mi serve più, basta una valigetta. Quindi deduco che nemmeno Babbo Natale serve più. In pratica non servo più neanche io. Servo a poco, diciamo, il mio mestiere è inflazionato. Oggi ogni semaforo c'è un Babbo Natale che pulisce i vetri. Io, davanti al negozio c'è Babbo Natale con il cappello in mano. I Babbo Natale vendono per strada lampadine a LED, bacchette per fare i selfie a distanza, stucci per telefono, o alla peggio calzini di plastica. Non basta un cappellino rosso con il pelo sintetico comprato dai cinesi per essere Babbo Natale, ma vallo a spiegare la gente. Ahimè, ahimè. Se c'è qualcosa che è contrario alla mia natura profonda, è vivere nella nostalgia del passato. Infatti ho Babbo Natale morente accanto a me che vive nel fulgore del suo passato. Ma come se fosse esistito da sempre, ma esiste da poco tempo. In fondo Babbo Natale. E Babbo Natale è legato a un'altra grande retorica. La retorica del regalo e del giocattolo. Soprattutto il bambino vive per il Natale perché il Natale ha giocattoli. E accanto a me vorrei che improvvisamente si aprisse lo scompartimento dei giocattoli. Maestà, il fante si presenta. Maestà. I giocattoli non quelli di oggi, non quelli che noi conosciamo, non quelli che già abbiamo visto ripetuti e ripetuti tante volte negli spot televisivi che intramezzano i programmi per bambini, che sono più programmi di televendita di giocattoli che programmi di intrattenimento per bambini. Quei giocattoli di una volta, quei giocattoli che ancora hanno attaccato addosso il senso profondo degli umidi, freddi e tristi Natali della nostra infanzia. Voi direte, ma perché tristi? Sì, erano tristi, non avevamo mai le cose che volevamo. C'è sempre un giocattolo scelto da qualcun altro, un giocattolo funzionale, un giocattolo istruttivo, un regalo utile, e noi volevamo il contrario di tutto. Io volevo armi, giocattolo. Sognavo il fucile bengalino, sognavo la pistola cobra. Non me l'hanno mai regalata, erano contrarie le armi. E ho trovato improvvisamente un libro, che è un libro di Cesare Zavattini, che è una persona che passerà alla storia della cultura italiana per aver detto una parolaccia una volta alla radio pubblica, alla radio nazionale. Disse una parolaccia che arrivò come una fucilata, come una cannonata nell'Italia codina e tremebonda degli anni 70. Beh, questo signore ha scritto un libro sui giocattoli che in realtà non sono altro che metafore della cattiveria che piano piano sarà coltivata nei bambini, che già in fasce, già sotto l'albero, già con il giocattolino in mano si vedrà i mostri che diventeranno quando saranno come noi. Facciamo qualche considerazione sui giocattoli più in voga. Cominciamo dal meccano. Non tutti possono comperarlo. È un giocattolo per le classi ricche. Vi sono anche dei meccani economici, ma con questi si può fare ben poco. Un piccolo ponte, una macchina con una sola ruota. I migliori sono talmente provvisti di pezzi, ingranaggi, fili, da poter costruire meraviglie come facsimili del ponte di Brooklyn. Possono però costare anche 1000 lire. Troppo. Io personalmente proibirei giocattoli di prezzo superiore alle 20 lire. Perché? Perché i bambini cominciano a odiare i propri simili troppo presto. L'invidia, madre di tanti mali, cresce nei loro piccoli cuori più in fretta della loro età e della loro statura. Vi sono legioni, eserciti di bambini che non potranno mai comprare il meccano. Conclusione, aboliamo il meccano. Non è vero che avremo meno ingegneri. Mi risulta che l'idea delle piramidi nacque in un uomo mentre guardava due formiche rampicanti su un sasso. Il treno va. Se volessi cercare una costante in tutti i miei viaggi in treno, la costante è proprio quella donna che ogni volta nella sigla viene raccontato che alla fine del viaggio mi aspetta. Sono anni che viaggio in treno, non sono mai arrivato alla fine del mio viaggio perché ho sempre avuto la fortuna di ripartire e infatti non ho mai incontrato quella donna, o perlomeno l'ho incontrata sotto varie forme, sotto varie donne, su donne che mi scrivevano, sotto donne che mi raccontavano, sotto donne che mi ponevano a un certo punto anche delle domande importanti, fatali, fondamentali, epocali, sulla loro felicità, sull'uomo che le sfuggiva, sull'uomo che non le voleva, sull'uomo che loro rincorrevano, sull'uomo che le rincorrevano non era quello giusto che loro rincorrevano. E la summa, la sintesi di tutte quelle donne improvvisamente mi appare accanto. È vestita con una tuta, quella che le donne mettono a casa di solito quando non aspettano uomini o quando hanno l'influenza, e questo è periodo di influenza. E questa donna, mesta, triste, sconsolata, si appresta di passare come me un Natale da sola, e anche lei ha scelto di passarlo in treno. E questa è la donna che vorrebbe regalare a tutte le altre donne la formula della felicità in amore, sapendo benissimo che questa formula non esiste. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Tu hai fatto una sorta di vademecum ideale per mettere in guardia le donne sul fatto che esista l'uomo pescatore, che è quello che non fa nessuna fatica, tanto gli abboccano lo stesso e quindi butta l'amo e arrivano. È questa tipologia di persone con cui mi è capitato di imbattere. Sì, facciamo degli esempi, come accade, come lavora il pescatore? Beh, una volta ne ho conosciuto uno alla festa di laurea della mia migliore amica, abbiamo iniziato a chiacchierare di, mi ricordo cos'era, mobili usati, e niente, poi dopo un po' lui ha preso il mio numero, ci siamo sentiti. Ma tu gliel'hai dato, scusa, un uomo ti chiede il numero, sì. Mica te lo chiede per giocarlo all'otto, è chiaro, lo chiede per provarci. Beh certo, ma se gliel'hai dato ti stava una bene. Una persona affascinante, sono singolo e dico vabbè, ma questo qua sembra interessante. Voglio capire dov'è, perché finora era normale conoscenza, una festa, ti chiede il numero, tu glielo dai e va bene. Esatto. Questo è normalmente succede sempre così. Certo, ma infatti fino a lì va tutto bene. E poi cosa succede? Che poi ti frequenti, però sono sempre delle frequentazioni a intermittenza, no? Non è che uno svede poi, che so, si inizia. Ma che dov'è a sposarti? Qual è il problema? No, non è quello, è che però uno inizia a dire no, guarda, non posso, no, ho una riunione, allora. Ma fammi un esempio, allora. Diciamo, la prima volta ti ha chiamato a quel fatidico numero di telefono. Siamo messi d'accordo, siamo andati a vedere, tipo, mi ricordo cos'era Serge Latouche che parlava di decrescita felice, su queste cose qua, che è una studentessa di scienze politiche. Per fiaccarti le reni ti ha portato a vedere una cosa pallosa, e va bene. No, era, a me piaceva in realtà, era super interessante. Quindi abbiamo iniziato a frequentarci per un po'. E quindi è partito alto, non è che ti ha portato al cinepanettone. Un connubio spirituale, intellettuale, interessante, no? Esatto, che poi su di me fanno una presa pazzesca. Dove ha sbagliato quest'uomo? Cosa ha fatto? No, non ha sbagliato niente, che poi però si è comportato male lui e i suoi epigoni. Beh, partiamo ancora al primo caso, in cosa si è comportato male? Perché poi alla fine uno scopre che non è vero che erano tutti impegni, che erano impegni magari, che non so, le tue amiche lo vedono con un'altra, poi non ti risponde più. Ma lui ti aveva promesso, sei l'unica donna della mia vita, ti aveva detto? No, non ha detto niente, però... Ti aveva detto siamo fidanzati? No, assolutamente no. Ti ha detto ti sarò fedele ogni istante della mia esistenza? Assolutamente no. E allora dove ha sbagliato? Non ha sbagliato, che però alla fine secondo me se vedi dopo un po' che frequenti una persona, che questa... è un po' innamorata o comunque lo capisci che non frequenta nessun altro, secondo me uno dovrebbe mettere le cose insieme. Lui dirgli guarda, metto le mani avanti, io per me tu sei soltanto un passatempo piacevole, non pensare che io sia innamorato. Dirlo. Quello andrebbe bene, ma però bisognerebbe... Ma tu gli avevi detto guarda che sono innamorata, per me è una cosa seria, gli avevi detto? No, però all'inizio certi discorsi, magari se tu sai che comunque stai frequentando altre 3, 4, 5, chissà quante persone, magari dillo, fallo capire subito, no? Ma di solito queste cose non è che si dicono tanto, adesso onestamente. Uno se le tiene per sé, anche per le altre persone. Uno ha le sue frequentazioni, pensa che sia un bel gioco e tutti sanno che è un gioco, no? Ma se uno dei giocatori non sa che è un gioco così, e se uno mi dice guarda, ci vediamo, ah no, non posso, c'ho la riunione con gli Architetti Senza Frontieri, ah no, non posso, devo fare quello, uno pensa che sia vero, poi capito, lo si incontra con un altro e dice ma molte volte uno dice per non far soffrire, mica ti può dire ma guarda, esco con un'altra, c'ho più voglia dell'altra, e di te ti dice una cosa, e tu devi capire così. Ma tu devi capire l'antifona, devi capire, ti dice così, è una pietosa bugia per non farti soffrire. Ma la pietosa bugia a me non mi sta tanto bene. E no, preferiresti tu che ti dicesse no, guarda, vado con un'altra perché sai, in questo momento ho più voglia di vedere quell'altra che te. Tu ti suicidi. Allora, sì, perché così almeno sono nella possibilità di scegliere. Dici, vabbè, me ne sto, mi va bene che questo si veda anche con qualcun altro. Sì, no, ciao. Quindi allora ho capito, diciamo, il regalo di Natale che faresti alle donne italiane è spiegargli che esiste quest'uomo, di non fidarsi. Questa è la sintesi. I'll be home for Christmas. You can plan on me. E mentre la ragazza parla, Babbo Natale borbotta. Chissà se Babbo Natale ha mai avuto donne. Non esistono donne nella vita di Babbo Natale, soltanto elfi. Per questo è così triste, per questo è così arrabbiato, per questo è così contrariato di starsene con me in treno invece che viaggiare nell'alto del cielo ghiacciato alla guida delle sue renne. Signor Babbo Natale, in coscienza, mi dispiace dirlo, ma non è che lei sarà un po' depresso? Altro che Gianluca. Da anni giro con la fiaschetta del Prozac. Da anni ho il reflusso gastrico per i troppo caffè che mi lasciano accanto all'albero. Sciagurata tradizione, ma chi ha detto ai bambini da generazioni di lasciarmi caffè, noci e biscotti per rifocillarmi? Ma non pensano che se io regalo dolci sacchettate non ho bisogno dei loro biscottini, e per farli contenti mangio, butto giù caffè, e poi se sclero qualcuno si meraviglia. A me dispiace dirglielo, anzi, fa sicuramente più male a me che a lei, però a lei non ci crede più nessuno. Cioè, da generazioni non ci abbiamo mai creduto a Babbo Natale. Ma come? Abbiamo fatto finta, dicevamo ai genitori, credevamo a Babbo Natale per avere regali. Forse per stare meglio, mi consenta, è meglio che lei stesso si convinca che non esiste, non è mai esistito. Ma anche questa vecchia storia che io non esista, ma quella solita bufala che hanno fatto girare da anni quelli delle multinazionali del giocattolo. A loro converrebbe che i ragazzini accedessero direttamente alla grande distribuzione via Amazon. Davanti al catalogo elettronico pianterebbero capricci massacranti ai loro genitori, che sarebbero costretti all'acquisto online. Si venderebbe molto di più, tutti perderebbero meno tempo. Per questo hanno inventato la letterina via WhatsApp, l'SMS a Babbo Natale, l'email con la lista dei desideri. If only questi ultimi anni di umanità digitalizzata per me, devo confessare, sono stati i peggiori. Questa mi sembra esagerata. Babbo Natale contro la tecnologia, contro il consumismo. Faccia il piacere, Babbo Natale. Lei è stato inventato per fare il testimonial della Coca-Cola e poi si lamenta delle strategie di mercato. Dica piuttosto che il suo brand è passato, è vecchio, obsoleto, e che qualcuno dovrebbe magari ripensarla, rimmaginarla di nuovo. No. Le fa male, lo so. Qualcuno ha anche provato a farmi qualche proposta di restyling, diciamo, ecco. Potrei forse, ecco, fare qualche aggiustamento a barba e capelli, che so, passare per un hipster. Ma poi dovrei mettere dei pantaloni attillati con il risvoltino. Io, Gianluca, come vede, ho una grande pancia, ho le caviglie a tronchetto. Mi si immagina col risvoltino. Ma c'è anche da dire che nemmeno io ne posso più di questi stivali foderati di pelo di capra, anche perché l'odore si sente, devo dire, Babbo Natale. In uno scompartimento chiuso l'odore dei piedi di Babbo Natale è insistente. Ride anche, si immagina a cosa possono servirmi ormai questi stivali, ora che la calotta artica si sta sciogliendo e l'unica neve che si vede a Natale è quella artificiale delle piste da sci, o al massimo quella che gira nei gabinetti dei locali milanesi. Uno dei motivi di crisi di Babbo Natale probabilmente è che i bambini non vogliono più i semplici giochi che fa Babbo Natale, come ci ha appena detto, quelli che costruisce lui nel suo villaggio, nel suo castello, nella sua casetta, in mezzo ai ghiacci. Ognuno si è immaginata come l'ha vista raccontata o letta da qualche parte, o vista in qualche film. I miei figli sono cresciuti con Polar Express, una bellissima storia di un bambino che non credeva nel Babbo Natale, e quindi monta in un treno e arriva fino alla fabbrica di Babbo Natale. Lo vede splendido, enorme, gigantesco. È come una fulminazione sulla via di Damasco, è come una grande conversione, è come un peccatore improvvisamente si accorge che esiste la grazia divina. Quel bambino vede Babbo Natale con le renne scalpitanti e con la slitta strapiena di regali, pronto a partire con la sua cornucopia gioiosa per riempire le case di gioia. Ma in realtà il terribile, cattivo e acido Zavattini, come vedeva i regali elaborati, li vedeva già come un'anticipazione al desiderio impossibile delle cose altrui. I bambini, possessori delle piccole automobili, così ben verniciate, così uguali alle grandi, investono i compagni ottenendo rispetto e timore. I bambini senza automobile crescono con il complesso di inferiorità del pedone, cioè con un sentimento di ammirazione e di rancore verso il proprietario dello straordinario giocattolo. Quanti furti d'automobile sono stati concepiti all'età di 8 anni? Il treno va. Povero vecchio Babbo Natale, non vorrei dirglielo che in realtà è solo un'illusione, è solo un'invenzione di qualcuno che un giorno ha pensato che facesse bene accostare a una bibita in bottiglia un signore rubicondo, sorridente, bello, grasso, pasciuto, vestito di rosso che il rosso mette allegria, con quelle guarnizioni di pelo bianco che lo fanno anche sembrare un po' ambiguo. Babbo Natale oggi non ha più ragione di esistere, perché Babbo Natale è ovunque. È proprio questo il suo dramma: scompare nel momento in cui è ovunque, in cui ognuno può dirsi Babbo Natale e non può essere rivendicato il fatto che di Babbo Natale ne esista uno solo. Ne esistono tanti, e quindi finisce l'illusione che sia proprio quello che è per tutti, che in quell'esatto momento scende nel mio camino e si occupa della mia felicità. When I'm feeling blue and when I'm feeling low, then I start to think about the happiest man I know. Io ci stavo riflettendo, visto che ormai del Natale è appurato che importi se non a pochissime persone, non è che il suo problema è proprio sul fatto che lei è un babbo? Ha ancora ragione di esistere qualcuno che è babbo per eccellenza? Beh, c'è del vero in quello che lei dice. Bisogna tenere conto dei tempi, è vero. È vero che essere un babbo mi riduce drasticamente il pubblico. Un babbo viene visto come figura che ribadisce la predominanza della cultura patriarcale in una società sempre più macista e di altri tempi. Ma c'è babbo e babbo, ci sono i babbi moderni, gli amici dei figli, i babbi carini, gentili, i babbi che collaborano. Non lo so, provi a cambiare babbo. Io faccio la babba Natale. Però piacerebbe molto, la babba Natale piacerebbe molto. Cosa, il babbuccio Natale, che invece fare faccio che carino, ma non si vede. Politicamente correttissimo. Oggi non è facile chiamarsi Babbo Natale. Pensiamo a un'altra ipotesi. Forse è il vestito sbagliato. Il rosso è un colore che obiettivamente rosso dai, non va più di moda. Chi è che si veste di rosso? Nessuno veste più di rosso. Dovrebbe cambiare colore. Ma devo dire, Gianluca, che io le ho provate tutte dal magenta al rosa confetto, ma garantisco che non cambia nulla. Ho provato a buttarmi sul blu. In tutte le tonalità il blu va su tutto. Un abito blu è segno di eleganza, distinzione. Il blu è sempre un classico. Anche sfina il blu, sfina molto. Ma ne farebbe bene. Niente, anche questo non è servito a nulla, nulla. Ho provato con il fucsia, con l'arancio, il verde pisello. Un anno mi sono vestito persino di grigio. L'anno in cui si parlava tanto di sobrietà e per me è andata sempre peggio. Mi dispiace che ho toccato un punto, penso, molto doloroso per lei. Mi rendo conto che già è difficile trovare un lavoro, uno che nella vita ha fatto solo Babbo Natale, poi a una certa età. Almeno ce l'ha la pensione, penso di sì. Ma che devo dirle? Non è quello il problema. Non si è mai visto un Babbo Natale fare la fame, d'altronde. In Laponia ho il mio orticello e gli elfi, pur se sindacalizzati, una mano me la darebbero comunque. Quello che mi piacerebbe, il mio sogno, ciò che mi farebbe svoltare la vita, sarebbe... Quindi ha un desiderio nascosto. Sì. Babbo Natale ha qualcosa che non ha mai avuto il coraggio di dire a nessuno. Sì. Beh, lei non può fare richieste, lei raccoglie soltanto richieste. Gliela faccio io. Qual è la cosa che la renderebbe veramente felice? Beh, quello che mi piacerebbe in realtà sarebbe andare... No, lo dica, non abbia timore. Non titubi, Babbo Natale. È fra amici. Desidero andare a cena con la Befana. Con la Befana? Sì, voglio andare a cena con la Befana. Ma l'ha vista mai la Befana? No, devo dire di no. Non ci siamo mai incontrati. Anche perché uno esce e l'altra entra. Quindi non è mai stato possibile passare una sera a lume di candela con quella fantastica fanciulla. Fantastica fanciulla? Ha un'idea sì. Come sia fatta la Befana? Sì, una volta l'ho intervista dallo specchietto della slitta. La vidi che entrava dentro un caminetto, ecco, e ebbi modo di scorgerla e notai la sua bellezza. Quanto tempo fa accadde questo? Secoli, devo dire. Molto secoli. Tempo sì, fa. Secoli, però probabilmente sarà un po' cambiata, ma sa, il fascino resta sempre lo stesso, sono convinto. E sarà ancora la bomba che vidi tanti anni fa, riuscirci. Ma sarà impossibile, chissà quanti ci proveranno, quanti la desidereranno. È molto corteggiata, c'è la fila, Babbo Natale, c'è la fila per uscire con la Befana. Povero me, povero Natale. Christmas is a coming and the lights are on the tree. How about a turkey leg for poor old me? If you haven't got a turkey leg, a turkey wing will do. If you haven't got a turkey wing, may God bless you. Sto sfogliando Cesare Zavattini, il suo compendio sui giocattoli. Quanto un polemista può osservare il lato marcio della società anche guardando dei giocattoli. Sembra paradossale, sembra assurdo. Nulla è più rassicurante di vedere dei bambini che allegri, lieti, stanno con i loro giocattoli e sorridono e immaginano il mondo. Ma voi immaginate che anche le persone peggiori che ha raccontato la storia dell'umanità sono stati bambini, hanno avuto dei giocattoli. Anche loro sono stati in dei momenti delle persone indifese che immaginavano il mondo. Ma quale mondo immaginava? Beh, in questo raccontino di Zavattini, che poi è un racconto degli anni 30, è un'altra società, è un altro mondo, erano altri bambini, ma rimangono delle costanti, le costanti di disprezzo e di cattiveria che poi segneranno sempre, da sempre, il mondo degli adulti. e Zavattini vede queste bambine che giocano alle signore nel loro finto salottino e cominciano ad articolare il loro rapporto di signore predominanti, dominanti e di padrone del mondo con le persone sottomesse, con le persone che saranno loro dipendenti. Oggi nessuno più chiama le cameriere come tali, però evidentemente certe signore e certi signori ancora sanno bene come maltrattare le persone a loro sottoposte. Il prete che doveva battezzare. Abolirei anche i giocattoli che favoriscono il gioco del salotto. Piacciono molto alle fanciulle che organizzano ricevimenti con le polentine di sabbia e i liquori d'inchiostro. Buongiorno, come state? E a casa? Le bambine ripetono con una precisazione strabiliante le parole dei grandi e vi adattano il loro spirito. Crescono con il convincimento che le donne di servizio, indispensabili in un salotto, siano istituzione divina. Ecco perché su 100 bambini almeno 90 offendono le donne di servizio, almeno 50 le picchiano. Esagerano poi queste se per vendicarsi mettono un dito nel caffè latte della padrona. Mi piacerebbe una volta avere la possibilità, la capacità di far felici tutte le donne del mondo, ma non per mia vanagloria, non con mia reciproca soddisfazione, me invisibile, me indifferente, me senza alcuna gloria di questo fatto, soltanto per vedere cosa succede e come cambierebbe il mondo se le donne fossero improvvisamente felici. E qui verrebbe per me un grande dubbio, un grande dilemma. Capire, e forse sarebbe l'unica moneta di scambio che vorrei, in cambio di questo grande miracolo della totale cosmica felicità femminile, capire che cos'è che farebbe felici le donne. Perché questo ancora per me è il rovello assolutamente più insondabile. È la domanda alla quale non riuscirò ancora a darmi una risposta. E la pescatrice nemmeno mi aiuta in questo caso a darmi qualcosa che assomigli soltanto vagamente a una razionale risposta alle mie domande. Saranno tutte tecniche di seduzione, però alla fine, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. Eh no, non mi pare il tempo che trovano. Sei distrutta, sei sotto l'albero di Natale a piangere. Assolutamente, sto facendo un trasloco, me ne vado a vivere via, sono contentissima. Mi sono cambi casa per dimenticare questo dolore? No, me ne vado via, che ho trovato lavoro all'estero, me ne vado. Quindi comunque era una storia che sarebbe Scusa, ma allora, poverino, l'avresti lasciato te? Comunque l'avresti comunque lasciato, andavi già all'estero, già avevi una via di uscita pronta, una strategia di uscita. Passiamoci un weekend insieme e via, poi chi si è visto, invece no, questo comunque ha dovuto rovinare tutto presentandosi in casa mia la domenica che avevo la febbre e farmi il discorso. Ma magari è venuto con altre idee, t'ha visto? Con la febbre, col termometro in bocca, col Vix spalmato addosso, con la gastroenterite che fa parte oggi della che non era molto romantico, ha detto no, guarda, ha dato una occhiatina allo smartphone, ha fatto la ripresina, poi ti ha fatto il bel discorsetto dell'uscita, no? Ah, può anche essere. E che doveva fare? Viene a casa, vedi una in pigiama che sta male, scusami. Ma avevo un po' di raffreddore, un po' di febbre. E poi lo attacchi, però è contagioso. Ma mi ero fatta anche la doccia prima che venisse qua, comunque. Ah, ti eri lavata un pochino prima. Ma sì, c'avevo anche la tuta quella che uso per ricevere gli ospiti. Beh, dai, non è proprio il massimo, tutte le medicine per casa. I piatti sporchi perché non ha fatti. Vedi, manda. Portare i mandarini. Poi sente l'odore di influenza. L'odore di influenza rimane per casa. Prima che esca fuori quell'odorino di chiuso di chi c'ha l'influenza. Dai, non è il massimo. No. Eh sì, dai, così. E l'alberello, l'alberello di Natale ce l'avevi? No. Pensa che tristezza. Natale manca una lucina, niente. No, sì, un po' di due lucine, sì, in un vasetto. Beh, dai, sembravi la piccola fiammiferaia, poverino, non se l'hai sentita. Forse è colpa del raffreddore, quindi. Vabbè, ma tu cosa? A questo momento, se tu potessi radunare le tue sorelle di sventura, quelle che ti uniscono nella disgrazia di aver incontrato un pescatore, quelle con ancora nel loro l'Abruzzo tenero la ferita insanabile dell'amo che ha lacerato le loro carni insieme alla loro sensibilità, cosa diresti loro? Di stare attente e di andarci piano. Quanto è durata la storia? Quanto è durata? Dal 3 novembre l'ho incontrato il giorno del mio compleanno e fino a domenica. Poco, pochissimo. Ma manco un mese, un mesetto. Ma esatto, ma infatti. Quante volte siete usciti insieme? 5-6 volte. Non è che è perso, non è perso un fidanzato, dai. No, ma infatti va benissimo. Infatti mi sto facendo delle risate sopra. Ma poi scusa, è stato onesto. Alla fine ha fatto sì che non ti compromettessi, ma nemmeno lui. Non so, il veglione di Capodanno, la settimanella bianca che potevi farti fra Natale e Capodanno. Meglio, ognuno se la fa per conto suo a questo punto, no? Ah, ma sì, ma infatti poi anche con il fatto che devo andarmene è ancora meglio che stare a pensare, oddio, ho dato qualcosa qua. Quindi è stato corretto, è stato leale. È stato corretto, però non so, se c'è modo e modo. Il treno va. Cosa che mi ha dato fastidio? Comunque questo è dovuto venire a casa mia la domenica, quando ero malata, a raccontarmi tutta la sua storia della sua vita che non avevo voglia di sentire. Ah, si è giustificato partendo da lontano? Sì, a dirmi, ah, sono un coglione, ho sbagliato, adesso ti ho perso. Scusa, se non te lo diceva non t'aveva perso. Ma io qua, cioè, alla fine potevamo vedere. Vabbè, gli uomini sono sempre molto teatranti, ed è sempre in scena una storia. Sì, con le mani nei capelli, sono uno. Vabbè, non ne poteva più di te, o aveva trovato di me. Ma come poteva di me? Ma ci siamo messi 4 volte. È per quello, sarà già stufato. Non gli sei piaciuta, che ti devo dire? Vabbè, fa niente. Ma no, fa niente, però, mica dico che sia giusto, si è perso moltissimo, però. Bisogna che anche voi donne, le più affascinanti del mondo, debbano pensare che non è detto al 100% un uomo rimanga ammaliato nella rete della vostra seduzione, della vostra grazia. Ci sono uomini che sono talmente refrattari che non, magari non vedono l'immenso valore che voi rappresentate. Ti è uscito 4 volte, non si sente all'altezza probabilmente di te, non ti merita veramente, non capisce il patrimonio immenso che avrebbe avuto nel frequentarti, e quindi magari si è trovato una squallidina di una fidanzatina triste con cui vuol passare esatto. Il Natale. Magari c'era esatto. Già la fidanzata, sai. Ma di sicuro c'era già. E quindi è passare il Natale con la fidanzata e non poteva passarlo con te. Però allora perché poi mi viene a dire, sarebbe piaciuto fare un viaggio con te, perché mi hai preso il cervello, parlo con te posso parlare di tutto, però poi alla fine sarà... Vuoi sapere perché? Adesso ti dirò una cosa, sei pronta a una cosa che potrebbe darti molto dolore? Sì. Però devo dirtelo, così ti faccio anch'io un regalo di Natale. È tutto nel termine ripresina. La ripresina non è che sia poi brutto, capito? Sono quelle con cui hai avuto una storia, una storiella, una frequentazione, via dicendo, capito? Che puoi comunque ritirare fuori e quindi ti conviene tenerle calde. Non una rottura drastica, vigliacca, una uscita morbida, una sfumata che lascia aperte sempre delle porte. Lascia un pertugino aperto. Metti caso, lui ha rifatto tutto il giro, andato con la fidanzata, con l'altra fidanzata, uscito. Verso febbraio, sotto carnevale, gli arriva di vederti, ti scrive e tu gli dici di sì, rientri nella ripresina, capito? E quindi per questo, se no ti avrebbe trattato male, sarebbe scomparso, tu l'avresti messo con un teschietto sul tuo telefono, anzi l'avresti proprio cancellato, anzi tolto da tutto, e te non facevi parte di quella riserva vitale che ogni pescatore deve avere. Come sai, il pescatore c'è quello che pesca i pesci, poi se li porta a casa, se li frigge, se li mangia, se li gode. E c'è quello che una parte del pesce lo surgela e lo mette in freezer. Ecco, tu fai parte del pesce messo nel freezer. In questo momento sono un merluzzo congelato. Bravo, esattamente, esattamente. Il momento che proprio non c'è altro, il supermercato è chiuso, tiri fuori dal freezer, gli ridai una scaldatina, è come nuovo, capito? Infatti è per quello che poi mi ha detto, quindi se ti cerco io ci vediamo. Hai capito, no. Hai capito. mi dai ragione. Anche quella frase lì. Mi dai ragione, e vedi pensare. Sì, sì. Dipende, tu puoi sempre pensare che di essere una seppiolina pronta lì nel freezer, aspettare qualcuno da a scongelare. Fare in umido, con certo. Un po' di concentrato di pomodoro. Certo. Beh, vabbè, senti, buon Natale. Ognuno ha il suo ruolo. Ti auguro di trovare in paesi lontani ciò che il pescatore qui ha frantumato. Ciao, grazie mille. Ciao. Alla fine forse sono stato crudele e voglio lasciare con una speranza la povera pescatrice, che in realtà altro non è che un pesce pescato, una povera sogliola presa all'amo che ancora non si rassegna del fatto che gli uomini usano come arma di seduzione la parola. Gli uomini non hanno artifici legati alla bellezza, se non i pochi uomini fortunati che hanno un aspetto molto gradevole, ma non sono mai quelli che hanno più donne, quelli che infrangono più cuori, sono sempre quelli più considerati come oggetti di decorazione. Sono gli uomini più infami, quelli più brutti, quelli più schifosi, quelli con la faccia più da lestofante, che in realtà hanno più fortuna, perché sono quelli che meglio sanno usare la esca preferita da tutte le donne, quella della mistificazione, quella dell'inganno amoroso, quella dell'illusione, quella delle parole che scardinano ogni resistenza perché vanno a toccare le chiavi più profonde della titubanza femminile, che si lasciano andare soltanto quando le donne sentono parlare d'amore. E parlare d'amore a una donna, se un uomo ha il pelo sullo stomaco e è capace a raccontare bugie, è la cosa più facile del mondo. Basta inventare e loro sono felici delle nostre invenzioni. Oggi siamo molto abituati a quei giochi mistificatori che vengono chiamati scherzi a parte, candid camera. Candid camera è un termine forse un po' vecchio, un po' antico, un po' obsoleto. Ma la televisione ama far vedere, nella sua totale mancanza di immaginario, far vedere che è bello giocare sui paradossi, sulla sorpresa, sullo spaesamento, sulla burla fatta alla persona che cammina per strada inconsapevole. Beh, questo non è una novità, lo faceva già Zavattini ai suoi tempi, dopo aver pensato che il trenino era il più bel regalo per i propri bambini. Pensò bene di vestirsi da facchino e di giocare con la sorpresa delle persone che non erano abituate ad avere un facchino ribelle, un facchino che alla richiesta di prendere le valigie si rifiutasse, si ribellasse. Allora non c'era la televisione, anche se Zavattini fu autore radiofonico e si occupò comunque di intrattenimento, però devo dire che era divertente pensare all'idea del facchino ribelle. E per chi viaggia in treno, perché ormai i facchini è soltanto un'ipotesi, qualcosa di lontano, qualcosa di antico, oggi hanno un altro nome, hanno delle macchinette elettriche e non lo fanno sicuramente per una mancia, lo fanno perché qualcuno li paga, lo fanno perché il loro è un mestiere dignitoso, come un altro. Pensare qualcuno qualche volta possa aver avuto la grande sorpresa di non vedersi obbedito da colui che per natura e per condanna altro non poteva fare che portarsi sulle spalle i pesi altrui. Ho comperato per questo Natale una bella stazione con gli scambi, i treni merci, i treni lampo, eccetera. Costa un occhio della testa, la pagherò a rate. Ma piace tanto ai miei cari ragazzi la stazione. Ci si divertono come al cinematografo. Racconto loro anche storielle sulle stazioni. Una volta io mi vestii da facchino e mi misi in fila con gli altri. Arriva il treno. Facchino, facchino! Gridavano i viaggiatori. E io stavo fermo. Prendete questa valigia, mi gridavano. E io rispondevo. Domandatemi qualunque cosa, fuorché quello di portarvi la valigia. Feci indignare almeno 100 persone. Ma il ricordo di un facchino dignitoso, anzi orgoglioso, non si cancellerà facilmente dalla loro memoria. I miei ragazzi dimostrano di apprezzare simili storielle, forse anche troppo, perché ogni tanto mi dicono che da grande vogliono fare il facchino. Avevo l'illusione che perlomeno il giorno di Natale mi sarei potuto risparmiare il consiglio sentimentale, avrei potuto fare a meno di leggere la letterina di un cuore infranto, di un amore impossibile, di una domanda senza risposta. E invece ho fatto i conti senza l'oste, anzi, senza la ragazza con la chitarra. Un semplice bigliettino, anzi, scritto sulla salviettina del treno, quella che danno insieme alla merendina, dolce o salato, a quelle cose lì, alla salviettina per pulirsi le mani, ma vergato, una graziosa letterina. Caro Babbo Natale, come stai? Questa letterina vale per tutte le volte che negli ultimi anni non ti ho più scritto e che ho fatto la brava, ovviamente, tu lo sai. Così ho deciso di rimediare per non farti un torto. Eccomi qui, perciò, a chiederti un piccolo regalo a te che tutto puoi. Ho solo una cosa da chiederti, stai tranquillo. Vado dritta al punto. Ciò che desidero è un uomo. Sì, degno di essere chiamato tale, però, eh? Deve essere anche affascinante, sicuro di sé ma non arrogante, dolce ma non smielato, sincero ma non sfrontato, intelligente ma non saccente, sensibile ma non insicuro, divertente ma non cinico. Deve sapermi guardare come se a stare con me si sentisse davvero un uomo fortunato, perché io lo rendo un uomo degno di essere chiamato uomo. Beh, dov'è la novità, ragazza con la chitarra? Non fai altro che sintetizzare quello che già tutte le donne mi hanno detto. È sempre la stessa storia. Vorresti un uomo che sia pirata allo stesso tempo sia seminarista. Vorresti un uomo bellissimo, la cui bellezza non crei scompiglio nelle altre donne. Vorresti un uomo possente, amatore, ma allo stesso tempo che vi lasci in pace quando avete il mal di testa. Vorresti un uomo infingardo, perfido, ma allo stesso tempo mansueto come un agnellino. Vi dirò una cosa che probabilmente vi farà molto male, ma come voi ormai siete convinte nella vostra maturità e nella vostra saggezza che Babbo Natale sia soltanto un'invenzione dei genitori per far felici i bambini, rendetevi conto che il Principe Azzurro anche lui è soltanto un'invenzione delle vostre mamme per farvi contente quando eravate bambine, che sbraitavate e volevate qualcosa che in realtà lei non poteva darvi. Vi diceva: attenta bambina, stai tranquilla, verrà il Principe Azzurro e ti farà felice. Beh, non esiste il Principe Azzurro, non è mai esistito. Fatevene una ragione. Buon Natale.